professor lo nero mi dirà ma io già c'ero. Ma questa canzone non riguarda lui e neppure i tempi bui, perché allora c'era solo la tele e i grandi ci dicevano: caro Daniele, non starla sempre a guardare, ci sono i compiti da fare. Ma Daniele ha altro a cui pensare, al suo caro professore che sta lì per interrogarlo. Daniele spera un 7 di rimediarlo, ma sta pensando ancora meglio, chinare e battere senza uno sbaglio. Ma che avete capito, non è un violento, ho parlato male, me ne pento. Parlo di rullante, di gran cassa, ogni dubbio speriamo ora vi passa. Meno sopra le pelli, non gli serve mica scaricare i nervi. Daniele è buono come il pane. E oggi di musica lui ha fame, sì però nella vita non sempre di musica si può campare. Ma oggi pensa come me alle passioni vere. Sì, Daniele.